che hai perso tuo figlio in tempo di pace e porti sul petto il suo viso, la tua croce. Lacrime del tuo dolore offerte per un mondo migliore, vicino a chi ora è lontano, vicino a chi ha ucciso il tuo fieno. Tu hai dato il tuo cuore per l'uomo, il tuo amore semina grano, e chiedi per chi ha ucciso perdono, e non domandi niente a nessuno. Fiera difendi ferita, con dignità senza offesa, tu che hai perso la tua parte migliore, tu che al mondo hai dato il tuo cuore. Grande il tuo dono, il tuo amore, il tuo cielo è un bel pezzo di pane, una stella che brilla nel sole, una stella marina nel mare, una fiaccola che splende in eterno, che brucia il fuoco dell'inverno e nutre il mondo di speranza e rende alla vita innocenza ed incita il vento a soffiare dalla parte migliore ed incita l'uomo a seguire la strada che va dritta al cuore. Donna che hai perso tuo figlio in tempo di pace, insegnami il segreto che ti ha dato tanta luce. Ora che gli alberi sono spogli di foglie e di fiori e sei rimasta da sola immersa, immersa nei suoi pensieri. Grande il tuo dono, il tuo amore, il tuo cielo è un bel pezzo di pane, una stella che brilla nel sole, una stella marina nel mare, una fiaccola che splende in eterno, che brucia il fuoco dell'inverno e nutre il mondo di speranza e rende alla vita innocenza ed incita il vento a soffiare dalla parte migliore ed incita l'uomo a seguire la strada che va dritta al cuore. Ti appartengono tutti i fiumi del mondo che liberi sentono di tuo figlio il canto. Chi è vittima di una feroce ignoranza diventa un simbolo per i popoli, una speranza, una rugiada per i puri di cuore, una pioggia, una benedizione solare. Ora che gli alberi sono spogli di fiori, ci resta il profumo dei suoi giorni migliori. Donna che ha perso tuo figlio in tempo di pace, insegnami il segreto che ti ha dato tanta luce. Lacrime del tuo dolore offerte per un mondo migliore, vicino a chi ora è lontano, vicino a chi ha ucciso il tuo fieno. Grande il tuo dono e il tuo amore, il tuo cielo è un bel pezzo di pane, una stella che brilla nel sole, una stella marina nel mare, una fiaccola che splende in eterno, che brucia il fuoco dell'inverno e nutre il mondo di speranza e rende alla vita innocenza ed incita il vento a soffiare dalla